Ciao a tutte e tutti da Frey, Debs e Olga. Ben ritrovate, ben ritrovati a questo 25 aprile a Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio che oggi va in diretta in un altro giorno, ma è una ricorrenza talmente importante che ci sembrava giusto entrare e portare anche un po' quel nostro sguardo storico con cui cerchiamo di raccontare naturalmente il passato, la storia, ma anche il presente in questa importante giornata. Una giornata importante non per altro che coinvolge la storia, perché di resistenza parliamo di 25 aprile 1945, ma parliamo anche di un qualcosa che è presente, che è molto contemporanea. Cos'è? Il pericolo fascismo? Il nuovo fascismo che avanza? Una necessità di un nuovo antifascismo? Tanti elementi messi insieme che andremo a presentare parlando con e leggendo i giornali di oggi. Che impressione ci danno i giornali su questa tematica antifascista, Debs? E innanzitutto auguri a tutte e tutte per questo 25 aprile. Siamo molto emozionate di essere qui a parlare dal Pratello. E appunto, come diceva Frey, siamo venute fin qui con tutta una serie di carte, giornali e giornaletti, perché in questi giorni abbiamo cercato di analizzare come la stampa locale non solo ha parlato del 25 aprile, ma non solo del 25 aprile, ma soprattutto anche di fascismo e, come vedremo poi, come si intende il fascismo da un punto di vista politico, in relazione al populismo, in relazione al governo attuale, al clima che c'è in Italia oggi. Dando una sfogliata generica come primo impatto, non se ne è parlato, a mio parere, tantissimo di 25 aprile e di antifascismo. Si è parlato invece tanto appunto di fascismo in relazione al fatto che le opposizioni al governo usano molto spesso, a forse in maniera anche impropria, il termine fascismo per accusare e delegittimare il governo attuale. Molti filosofi, storici e intellettuali hanno scritto nei vari giornali su questo paragone. E non è infatti non è una cosa che ci stupisce, perché infatti basta vedere insomma la prima pagina di Repubblica oggi, che per il 25 aprile ha messo metà della prima pagina i partigiani bolognesi, giusto Olga? Trionfanti e felici. Repubblica, infatti, che sicuramente non è un giornale rivoluzionario, invece in questi giorni sta usando a proprio piacimento l'antifascismo, perché appunto antifascismo e fascismo sono diventati modi per accusarsi e contraccusarsi. E come storici e storiche forse dovremmo appunto riflettere meglio sulla questione, su quali sono i significati di questi temi. Comunque, tornando al discorso in generale, a mio parere appunto strumentalizzazioni, riflessioni su fascismo e populismo e poche storie nel senso più classico su 25 aprile, partigiani e atti di resistenza. A proposito di storie, alla fine di questa puntata vi racconteremo un pochino di quella che è stata la Brigata Maiella, che insieme ai polacchi ha liberato il 21 aprile 1945 Bologna. Vi racconteremo la storia di un comandante che è ancora in vita e qualche giorno fa ha fatto la bellezza di 98 anni. Vi racconteremo qualcosa su questa che non è una brigata partigiana vera e propria, ma è un unicum nel panorama dei partigiani tra il 43 e il 45. Bene, allora iniziamo a entrare nel vivo di questa rassegna stampa, che comunque è stata abbastanza ricca. Abbiamo avuto diverse testate a cui far riferimento, perché come diceva Debs, la tematica dell'antifascismo mai come in queste ultime settimane, negli ultimi mesi, o meglio da quando si è insediato il governo giallo-verde, è stata presente sulla stampa. Un uso che ne è stato fatto abbastanza da speculatori politici, diciamo, che hanno creato un po' un'arma spuntata, fra virgolette. Però la cosa interessante è che abbiamo dei ministri, come già altre volte è successo in passato, che hanno paura del 25 aprile. È il caso naturalmente del ministro degli interni Salvini, di cui già altri prima di noi hanno parlato, ma da Left di questa settimana, che ha un numero dedicato alla liberazione, su cui torneremo più volte nell'arco di questa puntata, si ha un articolo di Roberto Musacchio: se un ministro ha paura del 25 aprile. e inizia in una maniera molto chiara Roberto Musacchio. È difficile immaginare un omologo di Salvini come ruolo istituzionale che in Francia annunciasse di disertare le manifestazioni della giornata dedicata alla presa della Bastiglia il 14 luglio o negli Stati Uniti quelle in cui si celebra l'indipendenza il 4 agosto. Invece il ministro degli interni non solo ha annunciato di non andare alle manifestazioni per il 25 aprile, ma lo ha ridotto ad una storia fra fascisti e comunisti. Ecco, qua in questo articolo di Roberto Musacchio viene presentata una delle prime tematiche che andremo ad affrontare, la fragilità della democrazia italiana. Quello che dice Musacchio, come ripetono tanti altri articolisti in questi giorni, è che il problema non è tanto nella fragilità dell'antifascismo, nello svuotamento dell'antifascismo e in un avanzamento del fascismo, ma in una fragilità delle istituzioni democratiche che iniziano a creare un vuoto in questo tipo di tematica. Ora iniziamo, facciamo un breve stacco, introduciamo il disco di oggi che ci accompagna. Da storici siamo andati a pescare un piccolo pezzo storico, abbiamo preso un disco che è materiale resistente del 1995, è prodotto dal consorzio su un consorzio produttori indipendenti dell'etichetta del Mulo, che ricorda la giornata del 25 aprile 1995 a Correggio, in cui il meglio di quello che era il rock italiano dell'epoca si confrontava con i pezzi della resistenza. Dalle belle città da te al nemico, fuggimo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Libertà è l'idea che ci avvicina, rosso e sangue il colore della bandiera, l'Italia si è armata forte e fiera. Sulle strade del nemico assediate, lasciamo talvolta le carni straziate, provammo l'ardor per la grande risposta, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della. Oh, Bentornate, bentornati sulla diretta di Radio Città Fujiko dal Pratello Resiste per questo meraviglioso 25 aprile. Sono Debs della redazione di Van Loon e occupiamo l'ora dalle 14 alle 15. Siamo molto stanchi perché arriviamo dal meraviglioso corto del 25 aprile e invece Olga era a creare nuovi piccoli partigiani con una mostra sulla resistenza. E come dicevamo all'inizio, oggi affrontiamo il 25 aprile, fascismo e antifascismo da un punto di vista storico, partendo dalla rassegna stampa. E adesso entriamo ancora più nel vivo e partiamo proprio da degli articoli specifici. Passo quindi la parola a Frey e prima appunto volevo salutare tutti e tutte quelle che non sono al Pratello ma che ci stanno ascoltando. Bene Frey. Allora, sì, rassegna stampa 25 aprile, rassegna stampa che va a toccare tematiche del dibattito molto contemporaneo in questo momento. Naturalmente siamo ancora su Left un momento e la cosa che ci colpisce in questo numero di Left è che ha toccato delle belle tematiche. Una di queste viene presentata nell'articolo I neofascisti non passeranno in Italia e in Europa, in cui un articolo di Federico Tulli che riporta una tavola rotonda fatta a Bruxelles con tre eurodeputate, Eleonora Forenza di GUE NGL, Anna Miranda di Vers Ale e Soraya Post del gruppo socialdemocratico, riportando un articolo che ci rimette su quella fragilità delle istituzioni democratiche in questo momento e il pericolo fascismo di cui si parlava prima. In Europa queste tre deputate hanno proposto una legge a livello europeo che è passata con 90 contrari e 39 astensioni, ricordiamoceli, che propone la messa al bando delle organizzazioni fasciste. È una legge importante, sicuramente c'è un limite forte in questo tipo di legislazione, però ci fa parlare del fatto che c'è un tentativo di rispondere a queste istanze, a questi nuovi pericoli che molti percepiscono, ma allo stesso tempo ci sono anche dei limiti. Prendo questo gancio per cambiare giornale e iniziare a entrare nel vivo di questa discussione su fascismo sì, c'è un pericolo che ritorni, antifascismo in crisi, che cos'è il fascismo? Abbiamo detto un po' male del giornale La Repubblica in questo momento, non peraltro perché fa un uso molto speculativo, come dicevo, della critica al governo come fascista. Ma la cosa che è venuta bene al giornale La Repubblica nelle scorse settimane è stata quella di aver avviato, dopo un editoriale di Eugenio Scalfari su questa tematica, un dibattito che ha coinvolto degli storici, cosa che ci fa piacere. Gli storici che sono intervenuti su questo tema sono Luciano Canfora, Carlo Revelli ed Emilio Gentile, tre nomi di peso nella storiografia di vario tipo e tre nomi di peso anche nel dibattito pubblico. Le posizioni che questi storici hanno presentato sono diverse fra di loro. Da un lato c'è stato un Luciano Canfora che poneva al centro dell'attenzione il rischio concreto di un ritorno del fascismo. Canfora ha sempre avuto questo tipo di posizioni che in un certo senso possiamo anche condividere, perché ha detto che ci sono degli elementi che mettono in continuità il mondo del mondo del ventennio con la nostra contemporaneità, non da ultimo il fatto che, dice giustamente Canfora, il fascismo si presenta sotto tante forme, per cui non dobbiamo pensare solo a Mussolini. Certo, c'è il riferimento al ventennio, ma c'è anche il riferimento a tante altre forme di fascismo che si sono presentate in Europa e nel mondo. Ci sono degli elementi di un fascismo che ritorna, citano a caso anche l'urfascismo e il fascismo eterno di Umberto Eco, ma ci sono anche degli elementi che hanno messo in discussione le istituzioni democratiche italiane anche in passato. La posizione che prendiamo in considerazione, di cui vi leggiamo qualche passaggio, dopo avervi parlato di Luciano Canfora, è quella di Emilio Gentile. Emilio Gentile è uno storico che ha del materiale di cui parlare in questo dibattito, perché è uno storico che si è occupato di fascismo soprattutto, e ha pubblicato un libro che si intitola Non a caso chi è fascista, in cui ha dimostrato ampiamente di avere degli elementi da poter mettere in campo. Ora, Emilio Gentile non è affatto persuaso di questa retorica del movimento del ritorno del fascismo, e dice: siamo in presenza di movimenti razzisti, ma la dittatura è un'altra cosa. Oggi viviamo in una democrazia anti-egualitaria che non tutela le minoranze. E Simonetta Fiori gli domanda: perché non la persuade l'analogia tra populismo di destra e fascismo? La prima ragione mi sembra la più evidente: il fascismo nega per principio qualsiasi forma di democrazia come espressione dell'autogoverno popolare, mentre i populisti fanno della sovranità popolare un principio talmente dogmatico da spingersi verso una democrazia diretta. E la cosa che nota Gentile è per l'appunto l'elemento del razzismo. Naturalmente lui la mette da profondo conoscitore del ventennio, pone in una maniera particolare la questione, dicendo che secondo lui, su questo noi non siamo particolarmente d'accordo, il fascismo in realtà aveva un razzismo moderato, fra virgolette, perché dice all'inizio Mussolini voleva italianizzare i 400.000 sloveni e le centinaia di migliaia di tedeschi che erano presenti nei territori annessi dopo la prima guerra mondiale, mentre il governo di oggi, il governo giallo-verde, punta su una discriminazione più netta. E soprattutto però Emilio Gentile inizia a mettere in luce quegli elementi di fragilità delle istituzioni democratiche di cui parlavamo. Allora, su questo tema rientra anche un altro bel approfondimento che è uscito in questi giorni. Il Manifesto ha pubblicato un numero speciale nel martedì che si intitola Fascismo passato prossimo, in cui ci sono degli interventi molto belli che potete rintracciare su internet. Naturalmente ricordo nella puntata di quello che oltre alla puntata di oggi troverete tutti i riferimenti e il podcast della chiacchierata di oggi con tutti i riferimenti sul nostro sito www.radiovallun.info. In questo articolo, in questo supplemento del Manifesto, troviamo due bellissimi articoli. Uno di Davide Conti, uno storico che ha scritto, ha pubblicato lo scorso anno un libro che si intitola Gli uomini di Mussolini, dedicato alla continuità di alcuni personaggi dal fascismo al nuovo regime democratico, e un intervento di Claudio Vercelli che si intitola Nazionalizzare le masse dentro la crisi. Questi due storici cosa fanno? Pongono l'attenzione alla tematica della fragilità della democrazia, una democrazia che è resa ancora più fragile dalle tante crisi che attraversano il nostro presente. Una crisi sociale, una crisi umanitaria anche, dice Davide Conti, e una crisi politica, una profonda crisi politica che ha presentato le istituzioni italiane ma anche europee ad un rischio di emersione di questi nuovi fascismi che tutto sommato esistono. Adesso ci sentiamo un pezzo, sempre preso dal nostro materiale resistente, e torniamo con questa diretta dal 25 aprile al Partello. fosco e il cielo sul lividore di paludi senza fine. Tutto intorno è già morto e muore per la gloria agli assassini. Una rete spinosa serra il deserto Bentornati sulle frequenze di Radio Città Fujiko, siamo sempre in diretta dal Pratello Resiste in questa bellissima giornata di festa per ricordare l'antifascismo e la liberazione. Sono Debs, sempre della redazione di Vallun, e tutti e tutti insieme stiamo controllando e spulciando i giornali di questa settimana e di questi giorni per capire come hanno parlato di fascismo, antifascismo, populismo, nazione, come insomma ci si tira la parola fascismo e antifascismo dalla propria parte per insomma accuse più o meno istituzionali e a fini solo elettorali. Sotto mano la Repubblica di oggi. La Repubblica di oggi l'abbiamo vista sia per i giorni passati, ma stamattina ci siamo un attimo distaccate dal corteo per andare a recuperare qualche giornale e quindi abbiamo solo sfogliato la Repubblica di oggi, che c'è ovviamente anche la parte su Bologna. Come abbiamo detto, apre la prima pagina con questa gloriosa foto di partigiani festosi a Bologna, l'editoriale di Ezio Mauro, Il nostro patto di libertà, che inizia con tutta una sbrodolata sulla nazione, che infatti non commenteremo, e poi continua con il motto che avevo usato nei giorni precedenti, ovvero affidandosi un po' agli intellettuali, come abbiamo detto prima, e dedica questa pagina che si chiama Per me il 25 aprile è, dove una serie di intellettuali, la maggior parte maschi, ma questo non ci sorprende, dove tutti dicono qualcosa, delle frasette da bacio Perugina sul 25 aprile. Beh, meglio di niente ovviamente in questi tempi bui, ma sicuramente non possiamo guardare il tutto con un po' di occhi critici. Siamo molto critici nei confronti della stampa, soprattutto quando negli altri giorni c'è un modo di raccontare le azioni del neofascismo, ovvero tutta la tantissima attenzione, la tantissima carte, parole che vengono sprecate per parlare di micro azioni dei gruppi neofascisti. L'esempio ce l'abbiamo avuto proprio ieri, se non sbaglio, ovvero che gli irriducibili della Lazio, questi coraggiosissimi ultras, fossero andati a piazzare Loreto a srotolare uno striscione. Questa notizia, stiamo parlando di 60 persone con uno striscione che andavano lì per la partita, hanno semplicemente srotolato uno striscione, sono stati lì pochissimo e sono fatti un tot di foto, un po' di saluti romani, fine. Le testate nazionali hanno ben pensato di dedicare tantissimo spazio a questa azione, tant'è che è stata per esempio sulla pagina online del Corriere della Sera per ore. Ora, al fronte delle manifestazioni passate da parte dei movimenti, manifestazioni di migliaia di persone a cui viene dedicato un trafiletto, mi chiedo cosa ci sia in testa alcuni giornalisti che appunto invece dedicano tante energie ai neofascisti. Cosa ci sta dietro questo gioco? Diciamo, ci deve portare a fare qualche domanda. Sicuramente ci fa molto arrabbiare vedere appunto questo sproposito. Passiamo quindi a Repubblica Bologna, alla sezione di oggi, eccola qua. La Repubblica Bologna apre con la lapide sfregiata alla vigilia della festa. Ecco, adesso un po' di, non so come, di imbarazzo generale per come viene affrontata la questione della lapide dei giornalisti e delle giornaliste di Bologna sui tutti i giornali. Virginio Merola, ci dispiace per la tua brutta figura e ci dispiace anche per come i giornali hanno affrontato questa cosa. Non perderemo tempo su questa cosa perché è davvero molto imbarazzante. Vi invitiamo ad andare in Bolognina a farvi una passeggiata sotto i canestri, a vedere qual è la lapide sfregiata e a capire perché quella lapide crea tanti problemi. Bologna Repubblica, insomma, dedica anche una parte al Sacredo dei Caduti e al click sul telefonino, una bella iniziativa, un po' di public history. E soprattutto ci ricorda una cosa molto carina, ovvero che a Ozzano dell'Emilia sarà posto un cippo per Gina Negrini, una staffetta di cui abbiamo parlato anche tempo fa, perché è una partigiana bolognese a cui siamo molto affezionate, e ora Olga dirà qualcosa in merito. Sì, allora, Gina Negrini era una partigiana, una staffetta nata e cresciuta e vissuta per molto tempo a Bologna. La sua particolarità è che è una delle poche donne, delle poche testimonianze che dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo aver fatto la Resistenza ed essere stata insignita anche con una medaglia, scrive le sue memorie. Ecco, noi siamo abituati, è da storici, è da fruitori della storia, a raccontare e a leggere molto, moltissimo memoriale sui partigiani maschi. Cioè, i partigiani maschi hanno giustamente hanno raccontato quello che è stato fatto in quei 20 mesi terribili, allo stesso tempo incredibili, tra il 43 e il 45. Molto, molto di meno sono le testimonianze delle donne. Perché? Gli storici se lo chiedono, le storiche se lo chiedono, perché le donne, dopo aver avuto questa, per la prima volta sostanzialmente, un ruolo di primo piano nella Resistenza, perché non dobbiamo dimenticare che le donne non sono solo staffette, ma prendono le armi e sparano ai nazisti e ai fascisti, quello che fanno poi è un rappel à l'ordre, si direbbe in francese, un ritorno a casa, come se queste persone che hanno fatto la Resistenza esattamente come i loro compagni maschi si debbano in qualche modo vergognare di quello che hanno fatto. Perché si devono vergognare? Perché i compagni maschi, chiaramente non tutti, ma in generale, hanno vissuto il fascismo, che è un periodo di forte maschilismo, di forte sessismo, e hanno detto semplicemente alle donne: ok, adesso avete fatto questa cosa, ma adesso potete tornare a casa, potete tornare alla famiglia e dovete tornare ai figli. Gina Negrini scrive 20 anni dopo, questo ci dà anche la misura di quanto è stato difficile per lei scrivere e raccontare di questa cosa. Ad un certo punto, dopo 20 anni, quindi siamo nel 67-68, dopo 20 anni che ripensa, e questo lo dice ogni giorno, ogni sera, al periodo più bello della sua vita, scrive questo libro, si chiama Sole Nero, lo potete trovare in tutte le biblioteche, è diventato un mini bestseller e ci racconta la sua scelta partigiana. Era stata dettata da una incredibile voglia di libertà, lei si era scocciata di tutto quello che stava vedendo, si era scocciata del fascismo, decide all'età di 17-18 anni di prendere le armi in mano e andare in montagna. Sembra una scelta, cioè, ne sembra una scelta facile, ma facile non è, perché per esempio in un passaggio ci racconta che è stato un uomo, un suo parente lontano che era già partigiano, a decidere che lei doveva andare, se poteva o no andare in montagna. Per fortuna questo lontano parente dice di sì, la mamma di Gina Negrini, che prega tutte le sere affinché la figlia resti viva, la figlia resta viva, e anzi nel 45 in sanatorio, perché lei poi stette molto male, incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita. E questa è una storia d'amore veramente di resistenza, perché incontra quello che diventa suo marito, ed è un partigiano dell'Unione Sovietica. Questo, il compagno della sua vita sarà Nuri, anche se la storia ci mette ancora lo zampino, perché Nuri sarà indagato dall'URSS, agli ispettori politici comunisti, e si farà, dopo aver fatto la guerra di resistenza in Italia, si farà anni e anni di campo di internamento. Loro due non si vedono più, lei poi si sposa normalmente, ha dei figli, e loro si rincontrano dopo 40 anni.